Stiamo attraversando una crisi. Nessuno immaginava un periodo come questo. I teatri, i cinema, i posti in cui le persone si incontrano sono stati i primi ad essere chiusi. All'inizio nessuno ha capito. Volevamo continuare lo stesso, siamo nati da poco, ma abbiamo tanta voglia di vederci. Pensavamo che qualcuno volesse fermarci, ma adesso è più chiaro. Non ci siamo fermati. Noi siamo qui, ma in un modo diverso, sempre con le nostre paure, le nostre forze, con le nostre diversità. Crediamo nell'arte, crediamo che in questo momento non ci sia bisogno di fuggire da noi stessi. Tutti ci consigliano cosa fare, cosa vedere, come distrarci. Noi pensiamo che mai come in questo momento bisogna essere attenti, informati, ma non internet dipendenti. Questa poesia ci fa riflettere sull'idea che la società in cui viviamo ci sottopone a ritmi frenetici, a volte facendoci dimenticare che abbiamo un destino comune. Se dobbiamo fermarci in questo senso, fermiamoci tutti insieme e ripartiamo da zero. Laboratorio di teatro Postwork. 9 marzo 2020. Mariangela Gualtieri. Custu ti allunai, si deppi si fremmai, do sciemusu, do intendesti si tottusu, chi via da troppo arrabbiausu, su fai nostru. Abbarrai a intru de su cotti, tottus afforasa del nousu, sanziai d'ogni ora ad affai fruttai. Questo ti voglio dire. Ci dovevamo fermare. Lo sapevamo. Lo sentivamo tutti. Che era troppo furioso il nostro fare, stare dentro le cose. Tutti fuori di noi. Agitare ogni ora, farla fruttare. Teníamos que parar y no lo lográbamos. Debíamos hacerlo juntos, desacelerar la carrera. Pero no lo lográbamos. No había esfuerzo humano que nos pudiese parar. Ci dovevamo fermare e non ci riuscivamo. Andava fatto insieme, rallentare la corsa, ma non ci riuscivamo. Non c'era sforzo umano che ci potesse bloccare. E poiché questo era desiderio tacito comune, come un inconscio volere, forse la specie nostra ha ubbidito, slacciato le catene che tengono blindato il nostro seme, aperto le fessure più segrete e fatto entrare. Forse per questo dopo c'è stato un salto di specie, dal pipistrello a noi. Qualcosa in noi ha voluto spalancare. Forse, non so. Adesso siamo a casa. Ed è portentoso quello che succede. E c'è dell'oro, credo, in questo tempo strano. Forse ci sono doni, pepite d'oro per noi, se ci aiutiamo. C'è un molto forte richiamo della specie ora, e come specie adesso deve pensarsi ognuno. Un comune destino ci tiene qui, e lo sapevamo, ma non troppo bene. O tutti quanti, o nessuno. È potente la terra, viva, per davvero. Io la sento pesante di un pensiero che noi non conosciamo. E quello che succede? Consideriamo se non sia lei che muove, se la legge che tiene ben guidato l'universo intero, se quanto accade, mi chiedo, non sia piena espressione di quella legge che governa anche noi, proprio come ogni stella, ogni particella di cosmo. Se la materia oscura fosse questo tenersi insieme di tutto in un ardore di vita, con la spazzina morte che viene a equilibrare ogni specie. Tenerla dentro alla misura sua, al posto suo, guidata. Non siamo noi che abbiamo fatto il cielo. Какой-то властный голос, без слов, сказал нам оставаться дома. А мы, как дети, мы что-то серьезное натворили, но мы не знаем что. И вот нас не целуют, не обнимают. Мы все попали в какой-то процесс торможения, и он как будто бы перенес нас в прошлое, в ритмы наших предков, праматерей. Una voce imponente senza parola ci dice ora di stare a casa. Come bambini che l'hanno fatta grossa senza sapere cosa.